Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi ci occupiamo di ambiente e biodiversità, un tema che forse fa meno notizia rispetto alla politica e all'economia targata Europa, ma che riguarda entrambe. Più precisamente ci occupiamo di traffico di specie selvatiche. Sì, avete capito bene, di corni di rinoceronti, di avorio, corallo e rettili venduti come animali da compagnia, perché il vecchio continente è un mercato fiorente per i fuorilegge. L'Unione Europea è punto di transito e principale destinazione per diversi prodotti del traffico illegale di specie selvatiche, con una media di 2.500 sequestri l'anno. Parliamo del quarto mercato illegale, dopo quelli di droga, armi ed esseri umani, con un giro d'affari di 17 miliardi di euro l'anno, gestito spesso dalla criminalità internazionale a danno dell'ambiente e spesso usato per finanziare movimenti terroristici. Specie come elefanti, rinoceronti, grandi scimmie, tigri e squali sono particolarmente colpite e minacciate di estinzione. Il bracconaggio di elefanti e rinoceronti ha raggiunto un picco storico che sta compromettendo il ripopolamento, identica minaccia per flora e fauna. È con noi l'europarlamentare Renata Briano, che saluto e alla quale chiedo cosa sta facendo l'Unione Europea per superare una certa disarmonia delle regole tra paese e paese. Per l'avorio, ad esempio, alcuni vietano ogni commercio, altri consentono quello di vecchi pezzi. Almeno 100 sono stati venduti in Francia solo negli ultimi tre mesi del 2014. L'Europa per la prima volta quest'anno partecipa a questo vertice internazionale del CITES contro il commercio illegale di oggetti o animali, piante che sono, diciamo, a rischio di estinzione. Quindi l'Europa si affaccia da poco, da un anno a questi temi. Bisognerà sicuramente, come per l'avorio ma per tanti altri argomenti riguardo questo, lavorare per una normativa che per esempio negli Stati Uniti c'è già e dicono che è anche buona a livello europeo. La comunità degli scienziati che si occupa di biodiversità segnala un problema ed è l'analfabetismo biologico, nel senso che agli aeroporti o in dogana il personale non è in grado di riconoscere il materiale che si trova in mano. Sanno leggere i documenti, ma non che cosa gli passa tra le mani. Quindi suggeriscono di investire nella formazione. Ma intanto ringrazio per questo suggerimento, che porteremo sicuramente all'attenzione anche dei colleghi nella prossima risoluzione. Io credo che sia giusto parlare della formazione, che sarà un tema sicuramente che, se faremo una normativa europea, dovremo assolutamente inserire, obbligare a fare formazione di tutti coloro che sono nei punti nodali di questa filiera dell'illegalità. Purtroppo l'analfabetismo scientifico, dico a volte, e biologico c'è un po' anche nei paesi, no? Si prediligono a volte altre materie, e su questo, diciamo, a tutti i livelli dobbiamo lavorare, perché in realtà questo analfabetismo riguarda un po' tutti noi che siamo dei consumatori, per cui è assolutamente necessario formare le persone che sono addette ai controlli o a verificare che questi oggetti non provengano dall'illegalità. Però è vero che noi consumatori possiamo fare tanto, un po' più di cultura generale da parte di tutti noi su questi aspetti è assolutamente necessario, e la strada è quella. Euzone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.